Mi nombre es Benjamín Villegas y nací en un pequeño pueblo del extrarradio de Barcelona el 16 de mayo de 1982. Este es el hombre que me prometieron que sería. Y este el hombre que soy. Y pertenezco a la generación perdida. Somos la única generación que tiene que lidiar con tres crisis: la de los 30, la económica y la crisis de valores. Nos inculcaron que engañar, robar y mentir no nos traería nada bueno. Nosotros solo queríamos cumplir nuestros sueños y llegar a ser astronautas, periodistas, deportistas, médicos, presentadores, actores o como hice yo. Soñamos ser músicos y hacer discos. Fui un estudiante modelo. Empecé a compaginar el trabajo y los estudios a los 17 y ahora me veo a las puertas del desempleo. Sin chalet, sin los dos coches, sin la casa, sin hijos. Una generazione perduta, così si autodefiniscono. Una generazione che conta 14 milioni di giovani oggi in Europa che non lavorano, che non studiano e che non si formano. Sono definiti NEET, sono un fenomeno sempre più preoccupante perché è un fenomeno che aumenta, avete sentito, 14 milioni è una cifra esorbitante, con un costo sociale anche ancora più alto, ma soprattutto un'opportunità persa, soprattutto sono risorse, sono energie, sono sogni, sono visioni che si disperdono, che non hanno un futuro ma non hanno nemmeno un presente. Per capire cosa sono i NEET, grazie a uno studio approfondito che hanno pubblicato da pochi giorni, diamo il benvenuto a Massimiliano Mascherini della Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Buongiorno Massimiliano, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Intanto, se ci vuoi presentare questa fondazione, dove vi trovate, chi siete, di cosa vi occupate? Sì, la Fondazione Europea per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni lavorative è un'agenzia europea con sede a Dublino, fondata nel 1975. Il nostro mandato è di fornire advice and guidance, quindi linee guida per il possibile sviluppo di politiche in ambito sociale e riguardo al mercato del lavoro ai policy maker. Mm-hmm. E avete studiato questo fenomeno, fenomeno non nuovo, ma fenomeno crescente, i cosiddetti NEET. Chi sono? Ci puoi fare un identikit di questa generazione perduta? Sì, i NEET sono tutti quei giovani che non si trovano né nel mondo del lavoro né nell'istruzione e né appunto nella formazione. Sono quei giovani che sono rimasti, diciamo, fuori da tutto, che non stanno investendo nello sviluppo del loro capitale umano. La popolazione dei NEET è una popolazione molto eterogenea perché comprende coloro che sono convenzionalmente disoccupati, coloro che non possono lavorare perché hanno o disabilità o delle responsabilità familiari, coloro anche che sono scoraggiati, i cosiddetti lavoratori scoraggiati o che sono diciamo esclusi dalle società. Ed infine comprende anche quei giovani che hanno deciso di seguire dei percorsi alternativi e quindi hanno deciso di non entrare comunque nel mondo del lavoro. Sono questa ultima popolazione di cui ho parlato, sono quelli, diciamo, più privilegiati, che hanno la famiglia che li può sostenere, diciamo. Massimiliano, ti faccio una domanda apparentemente banale, ma che dietro magari può nascondere anche altri livelli di comprensione. Nel senso, si diventa NEET perché si è obbligati o c'è anche una certa tendenza dovuta magari alla depressione, alla rassegnazione? Cioè, preferisco far niente piuttosto che scontrarmi davanti a dei no. Diciamo che, come ho detto prima, la generazione NEET è molto eterogenea. La maggior parte dei NEET diventa NEET perché non ha una possibilità, quindi si scontra con dei no e non riesce ad entrare, anche se vorrebbe entrare nel mondo del lavoro. Una percentuale residua, c'è anche la possibilità che decida di non entrare perché non si vuole scontrare con questa realtà e preferisce rimanere fuori, perché però lo può fare, perché se lo può permettere, perché magari viene da un background più privilegiato e c'ha comunque una famiglia che lo sostiene. È già un fenomeno europeo, intendendo l'Europa nel suo insieme, o ci sono alcune nazioni dove questo fenomeno è più noto, è più sedimentato? Il concetto dei NEET nasce nell'Inghilterra alla fine degli anni Ottanta come un metodo alternativo di categorizzare i giovani di età 16-18 anni. Da quel momento poi il concetto dei NEET, diciamo, entra a far parte del discorso europeo circa 10 anni fa, E quindi adesso l'indicatore dei NEET, comunque la popolazione dei NEET, è al centro del dibattito europeo. Ci sono paesi in cui il dibattito sui NEET è più caldo, e magari sono quelli dove la popolazione dei NEET è più elevata, come ad esempio la Spagna, l'Italia, la Grecia, l'Inghilterra stessa o l'Irlanda, che hanno un tasso di NEET molto, molto, molto elevato. Al nord, nei paesi scandinavi, si preferisce comunque continuare a chiamare disoccupati, perché la popolazione dei NEET è così di dimensioni residue che non è ancora entrata a far parte del discorso politico. E do anche due numeri. Avete calcolato che la disoccupazione giovanile è costata agli Stati membri 153 miliardi di euro nel 2011, mentre nel 2008 era costata appena, ovviamente tra virgolette, 119 miliardi. Parlavamo di un costo sociale, un costo economico, oltre che un costo proprio sociale nel senso lato del termine. Massimiliano, avete proposto anche possibili vie d'uscita? Ma noi abbiamo indicato possibili vie di uscita. Diciamo che negli ultimi anni, visto la dimensione del problema, molti Stati membri hanno proposto diverse ricette al fine di reintegrare i giovani nel mercato del lavoro. Diciamo che quelle che sembrano funzionare meglio sono due. Uno è il modello continentale proposto da Germania e Austria, con il sistema di istruzione duale, in cui appunto la esperienza nel mercato del lavoro è mescolata all'istruzione, quindi modelli di apprendistato sostanzialmente. Sì. Oppure il modello scandinavo del cosiddetto youth guarantee, cioè la garanzia per i giovani. Nel modello scandinavo, che funziona molto bene in Finlandia o in Svezia, il giovane che si registra al centro per l'impiego ha la possibilità di sviluppare un piano personalizzato di appunto sviluppo personale, per capire meglio quali sono i suoi gap negli skills o quali sono le sue forze, e poi entro 3 mesi gli viene proposto una garanzia, che può essere o un'offerta di lavoro o un training o un apprendistato, al fine di ampliare e completare il set degli skills del giovane. E questo è un modello che funziona molto bene, perché permette di intervenire prima che la disoccupazione di lungo termine colpisca il giovane, perché passare dei periodi di tempo nella disoccupazione è normale per i giovani, è normale per tutti. Il problema è quando entra la disoccupazione di lungo periodo, perché rende molto più difficile poi ritornare nel mercato del lavoro. Perfetto. E Massimiliano, vuoi darci un sito per conoscere il lavoro della tua fondazione? Sì, il sito è www.eurofound.europa.eu, e sul nostro sito potete trovare tutte le nostre pubblicazioni e anche la pubblicazione da me appunto completata sui giovani ai NEET. Ottimo, abbiamo già pubblicato il link sia su Twitter che su Facebook. Grazie, buon lavoro. Perfetto, grazie, e alla buongiorno. Prossima. Ciao Massimiliano. Ciao.